la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Sono le 16:08 primi e 31 secondi. Spero che gli effetti, man mano, insomma, gli antinfiammatori stanno facendo effetto. Spero di darvi meno fastidio oggi con i segni incipienti nella respirazione della mia influenza e febbre. Ma detto tutto questo, vi dico subito di che cosa parliamo oggi per vedere se ci volete, potete telefonare all'800240024, perché oggi parliamo di due cose. Il più del tempo però è dedicato a tentare di capire questa specie di enigma che è scoppiato in questi giorni di fronte al fatto che in centinaia e centinaia di comuni italiani il sottosegretario Baretta, rispondendo a un'interrogazione dei 5 Stelle di fronte alla quale aveva taciuto, non lui, il ministero per un anno, era stato più di 11 mesi l'interrogazione senza risposta in Parlamento, qualche giorno fa la risposta del sottosegretario Baretta è un sì. Cosa c'era scritto in questa interrogazione? L'interrogante, deputato 5 Stelle, chiedeva, ed era stato sollecitato, gli era stato segnalato il problema dal suo commercialista, Polignano Ammar, e il suo commercialista aveva detto, deputato, guarda che secondo me nel nostro comune ti chiedono e ti applicano una tariffa della TARI, quindi la tassa sui rifiuti comunale, che è calcolata con un metodo illegittimo. Il deputato chiede al ministero un'interpretazione autentica. In cosa consiste questa illegittimità? Consiste nel fatto, spero di spiegarla in maniera abbastanza semplice e non tecnica, ma consiste nel fatto che grazie alla improvvida fantasia estrema del legislatore tributario italiano, noi abbiamo una tassa sui rifiuti, la TARI, a cui siamo arrivati, sono decine e decine gli acronimi delle diverse imposte nei comuni succedutisi negli ultimi anni in Italia, di volta in volta immaginati come al solito in Italia con una fervida fantasia per inventarsi qualche cosa che non esiste all'estero, o meglio esiste ma non con questi criteri così bizantini come in Italia. Allora, questa imposta, che dovrebbe essere anche per direttive europee un'imposta proporzionata ai rifiuti raccolti, quindi dovrebbe essere una tassa, perché la tassa è in appunto ciò che si paga in proporzione a un servizio, invece nel nostro paese ovviamente noi ci siamo inventati le tasse ibride, cioè abbiamo delle imposte in realtà che hanno una parte patrimoniale, che ha quindi un coefficiente relativo alle superfici degli immobili, a prescindere dal fatto che magari siano disabitati e non producano rifiuti, e poi una parte variabile con cui si stima presuntivamente che, per esempio, a seconda della composizione del nucleo familiare, scatta un'altra presunzione di parte aggiuntiva della TARI da pagare oltre a quella che viene identificata patrimonialmente, cioè in base alle superfici. Qual è il criterio che ha spinto il deputato 5 Stelle, o meglio il suo commercialista, a chiedere al ministero, ma è legittimo o no? Ecco, il fatto che in quel comune, ma in realtà avviene in centinaia e centinaia e centinaia degli oltre 8.000 comuni italiani, la parte variabile dell'imposta, cioè quella in relazione al dovuto per effetto della stima presuntiva di quanti rifiuti vengono prodotti in quell'unità immobiliare a seconda, per esempio, della composizione del nucleo familiare che risulta ivi residente, non può essere applicata sia sull'immobile sia sulle cosiddette pertinenze. Cosa sono le pertinenze? Garage, box, se c'è un giardino, la parte coperta e chiusa relativa al magazzino degli strumenti, eccetera eccetera eccetera. Fatta questa domanda, poiché in quel comune la parte variabile veniva applicata a entrambe le quote, sia a quella della superficie dell'immobile sia a quella delle pertinenze, la risposta di Baretta è stata sì. La legge istitutiva in effetti prevede che non si possano applicare i criteri variabili per entrambe, e quindi a quel punto ha avuto la conferma che si tratta di una interpretazione illegittima. Ecco che nei giorni successivi quelli come me si mettono a gridare dicendo: ah, dopo un anno ce lo venite a dire, anche perché il sottosegretario Baretta fino a ieri poi rilascia interviste dicendo: noi non sappiamo in quanti comuni è avvenuto, non sappiamo fare stime, c'è un annuncio di una direttiva per il rimborso che siano 5 anni per chiedere e poi entro 180 giorni l'amministrazione può o meno rispondere, ma anche con un rifiuto che è fatto del puro silenzio, la prospettiva sarà lunga. E mentre io inizio a gridare dicendo lo Stato come sempre truffa, le risposte che mi vengono dagli amministratori sono neanche per idea: smetti di usare questi toni, perché tanto, e questo lo trovate sui giornali di oggi, lo trovate sul Corriere della Sera per esempio, ci dicono gli amministratori, noi ce ne facciamo un baffo lungo così, non è che dicano questo, però dico, perché tanto, poiché la legge prescrive che la TARI debba integralmente coprire i costi della raccolta rifiuti, vorrà dire che se dobbiamo rimborsare, a chi dobbiamo rimborsare? Noi comunque agli altri gli alziamo la tariffa, perché noi dobbiamo andare in pari. Il che mi pare due volte singolare, perché significa che da una parte c'è chi ha pagato di più e che chissà quanti anni dovrà aspettare per vedere indietro il corrispettivo che ha pagato di troppo, come sta puntualmente avvenendo da anni per la doppia imposta, che in una delle tante imposte precedenti sui rifiuti, la TIA, moltissimi applicavano mettendo l'IVA sopra l'imposta. Sono passati tanti anni, dal 2009 questa cosa. Ci fu una sentenza della Corte Costituzionale che disse dovete restituire i soldi, e in tantissimi comuni col cavolo che la gente ha rivisto i soldi indietro. Ma non solo c'è chi ha pagato di più e che ci metterà anni per avere forse qualcosa indietro, ma nel frattempo tutti gli altri a quel punto avranno una maggiorazione della tariffa. Allora, di fronte a una descrizione che spero immune da troppi errori tecnici, scatta l'interrogativo: ma è possibile mai che viviamo in un ordinamento di questo tipo, in cui non era chiaro sin dall'inizio che la parte variabile non si applica alla pertinenza, uno, due, e in cui anche di fronte alla mala parata tutti dicono ma noi abbiamo ragione, e a quel punto alla peggio se c'è qualcosa da restituire noi lo recuperiamo dagli altri? È accettabile davvero una cosa di questo genere? Allora, cominciamo, abbiamo tre ospiti per fare una raccolta di diverse opinioni su questo. Sul Sole 24 Ore potete trovare l'approfondimento anche relativo alla parte che riguarda il caos Tari sulle imprese, dove c'è un problema del tutto analogo. Cominciamo rapidamente sentendo un tributarista che sentiamo spesso, Alessio Argiolas. Grazie di essere con noi, Alessio. Grazie a te Oscar, un saluto agli telespettatori. Hai capito, hai sentito la mia introduzione, io voglio capire da te, l'ordinamento dà ragione a tutti e sono i contribuenti gli unici bastonati, sia quelli che hanno visto una imposta calcolata in maniera impropria e illegittima, come dice il governo, sia coloro che, se questi avranno diritto e vedranno riconosciuto il rimborso, dovranno per effetto di questo pagare di più? Ma com'è possibile adesso? No, innanzitutto secondo me c'è una confusione di fondo tra il metodo normalizzato per il calcolo di questi tributi, appunto per garantire un servizio, perché il termine tassa, come giustamente hai detto tu, è più opportuno perché non si parla di imposte, e invece il concetto di tributo armonizzato comunitario. Ciò vuol dire l'IVA è un tributo dove noi non possiamo fare quello che vogliamo. Quindi questo è un aspetto abbastanza importante. Perché l'IVA è l'unica imposta che finanzia il bilancio europeo in parte, in percentuale. Esatto. Come giustamente accennavi tu, queste imposte artistiche che derivano da un processo molto lungo, di una IUC che non è il saluto di Super Pippo, capito? Bensì l'imposta unica comunale, praticamente per sostituire la TARES, poi diventata TARI, poi quello che era TARSU e doveva uniformare, adesso hanno stabilito tutta una serie di provvedimenti dove la TARI è composta da una quota fissa, che come hai detto tu è quella che va a coprire il patrimonio, diciamo così, quindi e sono gli elementi essenziali del servizio. Cioè dobbiamo coprire quelli che sono gli investimenti sostenuti dalla pubblica amministrazione per garantirci questo servizio. La quota variabile tiene conto sia dei costi di produzione dei rifiuti, addirittura quelli che sono i costi di smaltimento e di messa in sicurezza degli stessi rifiuti, anche in caso di cessazione di fornitura del servizio. Beh, in teoria dalla terra dei fuochi, capiamo, cioè è un provvedimento molto lungo. E ha un'origine più che nobile. Quello che è completamente ignobile invece è un saldo zero per degli errori commessi ormai in maniera sistematica. Esatto. Perché non dimentichiamo che il primo articolo articolo fu opera proprio del Sole 24 Ore. Parliamo di un articolo citato appunto in questa interrogazione del 2014, dove queste cose sono state evidenziate. La taglia era appena stata sfornata. Non stiamo parlando di un errore che è sorto successivamente, no, l'Atari è nata con un errore di fondo, perché il saldo zero che loro vorrebbero propinare come qualcosa imposto a livello comunitario, uno, è falsa, perché non è un tributo, attenzione, non è una tassa, quindi come tassa di per sé va contro il concetto di armonizzazione. Due, la cosa peggiore, che è sempre a scapito del contribuente utente, perché chi ha sbagliato e ne ha portato uno svantaggio non può avvantaggiarsi se non a scapito di un altro utente contribuente. Perché è vero, loro dicono la parte variabile deve comunque finire a zero, perché deve coprire il 100% del servizio. Ma allora, scusiamo un attimo, la parte variabile che è la sommatoria TV, ma è possibile che dopo che i comuni hanno fatto un censimento, io parlo ad esempio, io mi trovo in questo momento a San Luri, il comune di San Luri è andato casa per casa, attività commerciale per attività commerciale, sono venuti da me nel mio studio per verificare, perché in precedenza c'era una macelleria, poi dopo c'era una faceva carpenteria, vedere cosa facevo. Un mio cliente che da 50 anni vende materiali per l'edilizia, poiché a casa sua, in un sottotetto, aveva due batter di una linea di quelle che si usavano 40 anni fa, hanno soggettato a tassazione pure il sottotetto. Quindi allora è inescusabile, è inutile che loro vadano a dire che deve finire a saldo zero a danno comunque non dell'amministrazione ma di un altro contribuente. Loro hanno censito ogni centimetro, perché la norma è chiara, dice che l'imposta si paga sul filo interno calpestabile, non sull'lordo. Quindi ciò che catastalmente risultava doveva essere verificato sul territorio, centimetro quadro per centimetro quadro. Allora, adesso il saldo zero non può essere garantito. Allora, aspetta un secondo, abbiamo due amministratori e sentiamo che cosa ci dicono loro. Abbiamo innanzitutto Valeria Mancinelli, che è il sindaco di Ancona. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, sindaco. Buon pomeriggio. Come avrà capito, noi siamo un po' ferrigni nel dire che sia proprio del tutto accettabile. Io sto parlando di accettabilità, non di quello che prescrive la legge. La legge prescrive questo principio per cui sì, se non è un principio, è una cosa molto precisa. I principi sono binding, sono non ho detto che è un principio derogato. Stiamo discutendo, adesso per capire, quindi stiamo discutendo se è giusta o no la legge. No, stiamo discutendo del fatto che se quello che Baretta dice, come mai non fosse così chiaro. Quella è un'altra questione, certo, però sulla questione del saldo zero, sì. Se non ho capito male, che voi per carità legittimamente secondo un'opinione contestate, però qui allora stiamo discutendo della legge, perché quello che prevede la legge è il saldo zero, è quello che prevede la legge, che può essere ovviamente discusso. Diciamo che la nostra per così dire sensibilità ci spingerebbe a ritenere che magari anche molti sindaci capiscono che agli occhi dei loro amministrati il saldo zero non è esattamente... Posso su questo forse provare a fare un esempio? Diciamo. Chiesto per questo. Allora, il saldo zero significa questo in sostanza, che la legge prescrive, su questo credo che siamo, lo diceva adesso anche chi che mi ha preceduto, è pacifico, diciamo, non è in contestazione il fatto che la legge italiana prescriva che il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, il costo del servizio, l'intero costo del servizio, debba essere coperto da quello che i comuni ricavano con la TARI. Quindi tradotto, io ho fatto questo esempio stamattina a un cittadino che mi chiedeva di questa questione, facciamo l'esempio che un comune sia come un condominio, la pulizia delle scale del condominio, che riguarda quindi tutti i condomini, a fine anno risulta ed è certificato che costa 1200 euro, perché la ditta che fa le pulizie, rispettando il contratto che abbiamo fatto, ci fa la fattura di 1200 euro. L'amministratore di condominio cosa deve fare? Deve ripartire quel costo tra tutti i condomini, sì. Che è evidente che la pulizia delle scale del mio condominio, del condominio dove abito io, la pagano i condomini dove sto io, certamente. Non quelli che stanno a carica. Certamente. No? Quindi l'amministratore di condominio, preso il costo che è quello, sa che deve incassare quella somma e la ripartisce tra i vari condomini. Quello che è successo, cos'è successo? Che nel regolamento che diversi comuni hanno approvato, facciamo conto che fosse il regolamento di condominio, c'è scritto che chi abita all'ultimo piano e ha pure la soffitta paga qualcosa in più, in proporzione ovviamente, di quello che sta al terzo, al quarto, al secondo o al primo piano, per alla fine arrivare sempre a avere quei 1200 euro che sono il costo totale del servizio. Ora, ammesso che sia questo, che quel regolamento di condominio abbia sbagliato nel stabilire che quello che sta all'ultimo piano e c'ha anche la soffitta deve pagare qualcosa in più, e dunque quel signore l'anno successivo, per il costo della pulizia delle scale dell'anno successivo, dovrà pagare qualcosa in meno, poiché il costo del servizio sia andato bene, è rimasto sempre quello, 1200 euro, se il signore dell'ultimo piano l'anno dopo paga qualcosa in meno, è evidente che per tirar su sempre quei 1200 euro che bisogna tirar su per pagare il servizio, i signori del terzo, secondo e primo piano dovranno pagare qualcosa in più rispetto a quello che pagavano l'anno scorso, perché alla fine dell'anno l'amministratore del condominio, che non può chiedere soldi a altri, signor sindaco, non ai propri condomini, sindaco, e questo è quello che è successo. Lei ha spiegato, no, aspetti. Dopodiché, aspetti. Dico io, perché il punto è questo. Mi scusi, prego. Mi perdoni, cioè prego. Se... Il punto è questo. Se Baretta e il governo hanno ragione nel dare risposta al Parlamento e non toccando il fatto che voi dovete far tornare i conti, e io sono, essendo un rigorista, sono d'accordo. Ma il punto non è un dettaglio. Non è cioè un dettaglio, però quello che... la domanda scusi, noi stiamo parlando di Iure Condendo in questo momento, abbia pazienza, signor sindaco. Allora, siccome il problema esplode adesso, voi avete il problema di chi chiederà il rimborso e di gestire questa roba, mi auguro meglio della TIR, che è stato un disastro. Ripeto, adesso è il momento per verificare se anche voi come sindaci capite, e sono convinto di sì, che per effetto capite una cosa, che se, ai giornali è arrivato e ai contribuenti è arrivato che voi avete applicato questa coefficiente di variabilità, dove dice Baretta la legge diceva che non dovevate applicarlo. Allora che per effetto sarà un'interpretazione, però è l'interpretazione della norma, il governo resa al Parlamento, che di fronte a questo chi pagava X adesso, di fronte a questo, perché ci sono rimborsi da fare, paghi X più Y, forse è il momento di ripensare questa cosa qua. No, mi scusi, io però distinguerei le due fasi. Allora, un conto è da qui in avanti. Diciamo che da qui in avanti, per l'anno prossimo, diciamo, per il 2018, prendendo e applicando il criterio che detta, diciamo, il governo, in questo caso attraverso Baretta, applicando quel criterio da voi siete tenuti, ce l'avete. Aspetti, per l'anno prossimo, nel mio comune, per esempio, abbiamo fatto il conto, per l'anno, all'ingrosso ovviamente, per l'anno prossimo applicheremo il criterio Baretta, il che significherà che il comune incasserà sempre la stessa cifra, cioè quella pari al costo del servizio ovviamente, solo che ci saranno, noi abbiamo come utenze domestiche circa 40.000 utenze, ci saranno 16.000 utenze domestiche che pagheranno qualcosa in meno e ci saranno 24.000 utenze che pagheranno qualcosa in più, non per rimborsare del vecchio di quello che è successo negli anni precedenti, ma per quello che riguarda il servizio del 2018. Ma no, ma questo è chiarissimo, perché i conti devono tornare subito, anche a prescindere da chi impugnerà e da quando verranno i pagamenti. No, ma non ci sarà bisogno di impugnare, adesso spiego perché, per quanto ci riguarda almeno. Farete in automatico? Questo, nella tariffa, perfetto. Meglio ancora, quindi io batto le mani. Questo per quanto batto riguarda, le mani, diciamo, batto le mani. Dal primo gennaio, ma questo tra l'altro l'ho dichiarato stamattina in una conferenza. Sì, ma infatti, sindaco. No, per dire che non è che lo dico solo a lei. Ma no, ma si figuri se mette in dubbio. Allora, questo per quanto riguarda il futuro, dal primo gennaio 2018, okay? Per quanto riguarda invece il passato, dove se avessimo applicato il criterio Baretta, tanto per intenderci, sarebbe successa esattamente la stessa cosa, cioè alcune famiglie avrebbero pagato di meno, quelle che oggi avrebbero diretto a rimborso, diciamo, e alcune famiglie avrebbero pagato di più. perché anche negli anni passati, come per gli anni futuri, vale quel principio dei vasi comunicanti che dicevo prima, cioè se qualcuno paga di meno, qualcun altro dovrà pagare di più, perché il totale deve portare comunque quel saldo. Ma per quanto riguarda il passato, cioè quello che è accaduto nel 2014-2016, per questo, siccome il governo, proprio credo questi giorni, questa mattina, se non ho letto male, ha annunciato che rimanerà delle direttive, probabilmente relative addirittura alla costituzione di un fondo nazionale per rimborsare coloro che eventualmente avrebbero pagato di più senza richiedere contributo, diciamo, per gli anni passati parlo, a quelli che invece hanno pagato di meno, sì. Perché a questo punto è evidente che c'è chi ha pagato di più e c'è chi ha pagato di meno, sì, di quello che avrebbe dovuto secondo la legge. Questo bisogna sempre ricordarselo, no? Però, siccome probabilmente c'è la costituzione di un fondo nazionale che coprirà il rimborso, allora, che ha pagato di più, senza chiedere un euro a chi ha pagato di meno, noi attendiamo, per non creare ulteriore confusione, attendiamo che il governo prenda questa decisione e ce la comunichi, ve la comunichi a voi e ai vostri amministratori. Dopodiché, per il futuro, ripeto, dal 1 gennaio in avanti, noi, chiarito il criterio, lo applicheremo in automatico a tutti, senza neanche bisogno che uno ce lo richieda. Va bene, intanto allora io ringrazio la chiarezza didascalica del sindaco di Ancona. Io resto dell'idea che se una direttiva dice inequivocabilmente che la superficie è calpestabile, eccetera, come vi ha richiamato il nostro amico contributista all'inizio, insomma, l'idea che il contribuente debba rimanere indifferente al fatto, comunque la calcoliamo, tanto alla fine per noi deve essere uguale, è una maniera per far capire la totale discrezionalità del modo in cui si procede. Capite? Questa roba ha la sua importanza nel percepito dei non troppo ben trattati contribuenti italiani. Guido Castelli, sindaco di Ascoli, ma qui come responsabile finanza locale dell'ANCI. Mi dia atto, Castelli, ci conosciamo da tempo, che come vede ho sentito anche il sindaco di Ancona, cioè capisco che per i sindaci il principio fondamentale, comunque devono tornare ai conti, quindi buonanotte, ci sarà qualcuno che pagherà di più. Lei capisce però che a chi si trova a dover pagare di più per questo dice: ma se il governo dice che non dovevate calcolarla così fin dall'inizio, e lei che dice su questo, Castelli? Che è complicatissimo spiegare al cittadino quello che è successo senza che il cittadino si arrabbi. Le parla chi ha correttamente applicato ad Ascoli Piceno il regolamento della legge sulla Tari, ma mi rendo conto che obiettivamente è una situazione che certo genera molto molto sconcerto. Voglio aggiungere sconcerto allo sconcerto in capo al cittadino. La cosa strana di tutta questa vicenda è che ogni comune d'Italia, compreso quindi anche quel comune che ha sbagliato l'applicazione della Tari, manda ogni anno il regolamento Tari proprio a Baretta, a Padoan e ai signori del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Che dopo un anno dicono di non avere i dati. Vabbè. Ecco, c'è qualcosa che non quadra. Lei capisce che c'è da fare una distinzione fra chi dovrebbe validare questi percorsi, questi regolamenti, e poi in occasione della risposta ad un'interrogazione parlamentare si ricorda di dire però hanno sbagliato. Ci dovevano dire, sulla base del principio di leale collaborazione, guarda caro sindaco d'Ancona o di Milano, hai fatto una cappellata, può succedere, perché non siamo, ahimè, infallibili. Allora, la cosa che davvero, senza nascondersi dietro foglie di fico, grida vendetta al cospetto di Dio, che ci sarebbe stato un meccanismo per evitare questa crudeltà al contribuente. Il MEF avrebbe potuto dire, controllando i regolamenti, questo non va fatto. E allora io credo veramente che siamo in un mondo che va a rovescio, perché quell'onere di trasmissione si aggiunge ai 18 oneri di trasmissioni varie che siamo chiamati a esercitare ogni qualvolta proviamo all'autorità centrale. Esattamente. E si rende conto, quindi veramente cerchiamo di liberare da questa oppressione fiscale il cittadino, perché purtroppo le norme sono davvero... Allora, a me fa piacere che lo dica lei, diciamolo, in quanto responsabile finanza locale dell'ANCI, perché se lo dico io mi dicono che sono un matto maniaco, però il problema è che il Sole 24 Ore, subito dopo che uscì la nuova, i principi informatori della regola nazionale da cui deriva la Tari nei comuni, scrisse che c'era un problema grande come una casa. Quindi, cari amici del MEF, io sottoscrivo con le mani, con i piedi, di, con le corde vocali, quello che ci ha appena detto il responsabile finanze locali dell'ANCI, sindaco di Ascoli, perché invece di impugnare solo le cose che non vanno bene delle autonomie, dei comuni, delle regioni e così via, di fronte alla Corte Costituzionale, magari di fronte a una roba in cui fin dall'inizio vi era stato detto che la norma nazionale aveva un bug, un buco, insomma, interpretativo, fin dall'inizio forse era il caso di dare retta a chi ve lo avanzava come dubbio, motivatissimo, perché insomma solo 24 ore ha ovviamente una manica di professionisti che sono specializzati su questo. E visto che ci avete messo tanto tempo, adesso il problema, io spero che questo fondo nazionale serva almeno ad attenuare un principio che a tutti i nostri ascoltatori sembra la conferma che lo Stato discrezionale fa comunque quello che vuole, e questo mi dispiace, perché quando questa è l'impressione che si dà al contribuente, si erode la coesione del rispetto spontaneo da parte del contribuente alle norme tributarie. Ma in questo caso la responsabilità è dello Stato, non del contribuente. Allora, intanto, grazie ai nostri ospiti, noi torniamo dopo le informazioni sulla borsa e un po' di pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. This is the end. Eccoci qua, tornati in diretta, cari ascoltatori. Io ho dimenticato di ricordarvi 800240024, adesso è un po' tardi per ricordarvelo, perché vi avrei chiesto ovviamente se vi sembra possibile che assistere al fatto che il governo e comuni ognuno avanza un'interpretazione diversa di un dubbio avanzato 3 anni fa su come si elaborano i criteri per la tassa sui rifiuti, che in realtà è una tassa solo per modo di dire, perché c'è una componente patrimoniale, per poi chiudere la partita dicendo vabbè, rimborsateli, però insomma comunque dovrete chiedere di più agli altri. Quindi il criterio giusto non c'è, ciascuno resta in mano con la propria verità, sapendo che comunque per lui è un non problema, perché comunque chiuderà il bilancio. Su questa base, mi dispiace, i presupposti di certezza, non del diritto, ma della propria obbligazione tributaria, clamorosamente vengono meno. È uno dei presupposti fondamentali perché un paese sia spontaneamente tenuto all'adempimento fiscale, capite? Perché la fiducia sul fatto che se ti dicono una cosa è così, qui viene meno, perché è una specie di proiezione, di gioco delle ombre sulle pareti, in cui ognuno si dà ragione e dicono, beh, vabbè, alla peggio pagherai tu di più. Ma dici, ma il criterio era giusto che mi avete applicato? Vabbè, ma comunque devi pagare di più. Questo criterio è un po' il rapinatore all'angolo della strada, Io lo dico da parte di chi vuole che i bilanci siano rigorosi e non si vada in deficit, però il criterio non può essere comunque paghi perché cambio idea e te li faccio pagare di più. Però detto tutto questo, poiché stiamo parlando proprio di saldi di bilancio, un aggiornamento su che cosa sta avvenendo intanto sul fronte previdenziale. Sapete, ne abbiamo già parlato molte volte, che è aperta una trattativa tra governo e sindacati, che interpreta una specie di rumore di fondo che viene dalle aule parlamentari, in cui anche il PD sulla questione dell'estensione dell'APE sociale, no, sull'estensione delle categorie cosiddette usuranti ammesse alla deroga del requisito anagrafico per le pensioni di vecchiaia, favorevole alla politica, favorevole in tutti gli schieramenti, e ieri è uscita fuori questa proposta del governo. In cosa consiste? Il governo dice che sono solo 300 milioni aggiuntivi, che per carità è più o meno l'equivalente di quello che c'è nella legge bilancio dell'anno prossimo per tutta la decontribuzione per i più giovani nella legge di bilancio. Giudicate voi se il criterio è giusto, io mi preoccupo dell'equilibrio tra generazioni. Ma nel frattempo la campagna elettorale che è iniziata ha visto per esempio Silvio Berlusconi annunciare, come se niente fosse, che votate per Forza Italia, perché noi siamo per il raddoppio, tanto per cominciare, delle pensioni integrate al minimo, quelle integralmente a carico dello Stato, dell'INPS. E io sono andato a controllare nel bilancio dell'INPS, le integrazioni al minimo integralmente a carico dello Stato nel 2016 hanno comportato una spesa di 4,9 miliardi di euro. Quindi significa che Berlusconi lancia così, come nonchalance, una proposta di aggravio della spesa per l'INPS di 5 miliardi in più, coperti come? In deficit. Chi paga di più? Vale anche qui il principio della della Tari, quindi ci sarà chi paga di più per questi 5 miliardi. Io non entro nel merito del sia giusto o meno avere gli assegni integrati al minimo, che per l'anno prossimo salgono di poco, salgono da 501 euro a 508 euro e qualche cosa, però se iniziamo con ognuno che propone 5 miliardi di qua, 10 miliardi di là, mi preoccupo, perché o ci dicono la copertura o ci dicono che vogliono aumentare il deficit, però ci devono dire alla fine chi paga. Allora, per capire meglio però, come sempre, anzi no, come sempre, però come è già capitato e come io vorrei capitasse più spesso, Davide Colombo, giornalista del Sole 24 Ore, che su queste questioni, anche su altre, ma su queste previdenziali, da anni e anni, con la fatica improba di dover seguire cose tecniche, però tenta anche di divulgarle, spiegarle chiaramente a tutti gli ascoltatori, in questo caso, ma a tutti i lettori del Sole 24 Ore, tutti i giorni. Grazie di essere con noi, Davide. Grazie a voi. La proposta avanzata ieri dal governo, che per i sindacati non basta, di estensione degli usurati, per i sindacati ci sono molte altre categorie eccetera, ha senso con la stima di 300 milioni secondo te? Ma intanto diciamo che per ora sono uscite delle indiscrezioni da un incontro che è durato un paio d'ore a un tavolo in cui c'erano tre persone da una parte, cioè il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia e il Ministro del Lavoro, e tre dall'altra, cioè i segretari CGIL e CISL e UIL. Si è parlato di 300 milioni, noi abbiamo compreso che si tratta di 300 milioni nel triennio di programmazione. Ah, pure. E con questi 300 milioni, in parte tra l'altro reperiti dalla minore spesa effettuata quest'anno e stimata già per l'anno prossimo sull'APE sociale e sui precoci, il pensionamento anticipato dei precoci, utilizzando la minor spesa per quelle due misure si coprirebbe in tutto o in parte questi 300 milioni che servono per garantire l'esenzione di queste 15 categorie dallo scatto di 67 anni nel 2019, insieme con la promessa di ripensare in questa commissione tecnica come fare gli scatti successivi al 2021 per l'adeguamento automatico dei requisiti all'aspettativa di vita. Calcolandoli non più da ogni tre anni, ma di biennio in biennio paragonato. Esatto, questa è l'ipotesi di fare questa media diversa. Su quella stima di 300 milioni non aggiungo altro, perché vediamo sabato alla fine su che tipo di documento finale o addirittura di emendamento che il governo poi presenterà alla manovra, troveranno un punto di equilibrio, mentre invece sull'adeguamento automatico noi possiamo dire che, se vuoi, i due numeri che ho estratto per questo collegamento alla tua trasmissione, nell'anno 2019, quando il requisito di età sarà 67 per la generalità dei lavoratori, si può stimare che circa tra il 50 e il 60% delle pensioni di vecchiaia e anzianità scatteranno sotto i 65 anni, e ci sarà un 40% di questo 65%, quindi facciamo tra il 15 e il 20% della generalità, che andrà in pensione ancora con meno di 60 anni. Questo avverrà nel 2019, è un'ipotesi, una stima che si può evincere dalle età medie di pensionamento effettive avvenute nel 2016, quando già il requisito era 66,7 per la vecchiaia. Il 68% delle nuove pensioni tra vecchiaia e anzianità è iniziata sotto i 65 anni, di queste il 40%, 25% del totale, sotto i 60 anni. Quindi diciamo che stiamo parlando un po' come quando si parlava dell'articolo 18, non si sa se lo applica ancora qualcuno, ma se ne parla molto, insomma. Ecco, diciamo che bisogna guardare le età reali e non le età legali. Cari ascoltatori, io questo vorrei dirvi quando sentite in televisione o in radio ripetere: ma siamo il paese con l'età più alta di pensionamento in Europa, eccetera. Due punti a capo, non, sottolineo tre volte, capital letters, tutte maiuscole, non è vero. Ecco, è chiaro che non è vero, non è vero. Detto tutto questo, mi dai un'opinione rapida su il raddoppio delle integrazioni al minimo per pensioni sociali? Ma lì, dunque, diciamo questo: nel 2001 con la legge 488 Berlusconi introdusse, diciamo, una maggiorazione sociale come trattamento esente, quindi come un trattamento che non aveva impatto fiscale, e La misura circa costò 2,5 miliardi di euro, venne varata che ancora eravamo in vecchie lire, ma diciamo valeva circa 2,5 miliardi di euro. Ora, dire 1000 euro, porto a 1000 euro tutte le pensioni inferiori a questa soglia. Ci sono circa 6 milioni di persone che hanno una pensione. No, ma io voglio sperare che sia solo la parte di integrazione sociale. Se pensiamo di tutte. Se pensiamo tutte, altro che 5 miliardi. Se siamo sull'integrazione sociale, diciamo che stiamo parlando di una pensione che attualmente è attorno a 504 euro al mese. Sì. Che l'anno 2018 dovrebbe andare attorno a 508-510 per l'adeguamento all'inflazione, è un trattamento pensionistico soggetto a imposizione IRPEF, costa circa all'incirca 5 miliardi la spesa per questa fascia. Ma se invece... Raddoppiarla sarebbe un più 5 miliardi, più 5. Però bisogna tener conto di come lo fai, nel senso che se lo fai così fai andare fuori dalla no tax area una certa quantità di pensionati che adesso sono dentro la no tax area, per esempio, che e quindi 8.050. Da una parte gli dai, dall'altra prendi, per esempio. Secondo, se lo fai tenendo conto anche dei redditi complessivi, se hanno altri redditi, per esempio Berlusconi in una prima versione del suo un milione di pensione a un milione minimo un milione era partiti con un riconoscimento di questo aumento per i pensionati che avevano un'età compresa tra i 65 e i 70 anni, quindi escludendo una parte della platea. Cioè, è molto variabile, diciamo, l'unica cosa certa è che avremo degli scatti di spesa pensionistica, diciamo, mal contati a partire dai 5 miliardi in su. Va bene, vedremo il resto della campagna elettorale che cosa ci riserverà. Noi ogni tanto ti chiamiamo, Davide, abbi pazienza e ti costringiamo a ripetere per chi non compra, non ti legge tutti i giorni, solo 24 ore, ma qui serviamo anche per passarci la palla a vicenda. Grazie a Davide Colombo, adesso andiamo rapidamente sulle strade e poi una telefonata vostra. La versione di Oscar. Ed eccoci tornati in diretta, quindi torniamo con le vostre telefonate della questione della Tari. Cominciamo con Amedeo che ci chiama da Salerno. Amedeo, prego. Salve, salve. Complimenti, risaltiamo a te, non c'è bisogno. Senta, io le volevo dire solo qualcosa di divertente. Sì. Io penso che lei pensa come me. In Italia il ministero e il ministro più influente è il presidente dell'ANCI. Quella è la vera organizzazione che tende a vessare i cittadini. Mi spiego. Io se ho un'azienda e fatturo 100.000 euro... Arriva uno, mi dice il tuo studio di settore, prevede che tu devi pagare 50.000 euro di tasse. Io dico, ma io ho 100 dipendenti, non me ne frega, la tua azienda deve fatturare tot. Allora io mi chiedo, deve pagare tot? E io mi chiedo perché le municipalizzate, chi riscuote i comuni, può fare il discorso sul coprire i costi e non vedere i costi che sono? Se perché in campagna abbiamo il 200% dei dipendenti che ha assunto la politica, perché il cittadino deve pagare per le clientele della politica? Questo è il discorso. Allora il sindaco, che è un criminale politico, che l'ha intervistato prima, mi fa l'esempio del condominio. Io mi meraviglio come lei non l'abbia interrotto, l'esempio del condominio. Ma lei che cosa sta dicendo? Ma lei ha capito che lei stabilisce i costi, stabilisce di spendere 100 miliardi di euro perché vuole assumere 300 persone e il cittadino si deve spalmare la tassa. Ecco, io devo dire a Amedeo, siccome la penserei anch'io, ma se faccio così poi mi cacciano su due piedi, e in questo sto dichiarando la debolezza dell'informazione, perché effettivamente penso anch'io che dichiarare che l'unico principio che conta è che comunque i conti dello Stato tornano sempre e voi pagherete di più, mi pare una roba che sia di un'insensibilità assoluta. Però io, a pensarla come lei, le aggiungo, per esempio, ho letto oggi, ho rilanciato su Twitter, la regione Sicilia, che ha 17.000 dipendenti, ha tre volte i dipendenti della Lombardia, che ha il doppio degli abitanti della Sicilia. Capito? 17.000 dipendenti, cioè, ripeto, ha tre volte i dipendenti della Lombardia, che ha il doppio degli abitanti della Sicilia, c'ha 250 milioni per le imprese e le innovazioni, che non riesce a dare, non darà per anni, perché la regione Sicilia dice che non c'ha gli organici per processare le domande. Con 17.000 dipendenti chiedono, avendo soldi per le imprese e lo sviluppo, chiedono più assunti. Allora, questo dà ragione, secondo me, ad Amedeo da Salerno. Cioè, non è possibile accettare una cosa simile come pecore al macello, cari contribuenti. momento in ascolto. Poi dicono io sono un po' fumantino. No, io la penso come Amedeo. Maurizio, ma ci chiama anche lei da Salerno, Maurizio? Sì, sì. E com'è questa cosa? Buonasera. Come diceva Totò, sono troppe coincidenze che coincidono. E Salerno pure lei. Che ci dice? Sì, senta, guardi, no, io ho ascoltato prima, ero in automobile e come dire, ridevo mentre sentivo la sua trasmissione, perché c'era la sindaca di Ancona che diceva tante cose incomprensibili, anche un po' orticanti, quando invece c'è un esempio molto semplice su come vengono gestiti i rifiuti. Ci dica. Io ho una casa in montagna in Alto Adige, sì. A Vipiteno. A Vipiteno sa come funziona? Dica. Facile, facile, facile. Tu all'inizio dell'anno vai al comune, buongiorno, mi chiamo Maurizio Colucci, dove abiti? Via Frundsberg 64, eccetera, devo comprare i sacchetti per la spazzatura. Sì. Ogni sacchetto che loro ti danno tu lo paghi, quindi puoi comprarne 50, 100, 200. A seconda paghi del consumo e della produzione reale, bravo, quindi. Bravo. Grande Maurizio, il mio stato ideale! Vedete, cari ascoltatori, è possibile, non con formule diverse che ciascuno contesta all'altro quale sia l'applicazione, perché tanto per loro è indifferente, perché ci fanno pagare comunque quello che hanno deciso a prescindere. Grande Maurizio, viva l'Alto Adige!